Buonasera a tutti, bentrovati. Il terzo appuntamento dello scaffale numero 1 di Buchinista stasera prevede una lettura, non una presentazione ma un reading, di e con Francesco Maino, autore di Cartongesso, questo libro qui, che chi volesse può comprare al banchetto di Mondo sui Vivendi nella sala adiacente. Benvenuti. Faccio il discorsetto di presentazione come l'altra volta, è venuto bene. Questo è uno spazio occupato che si chiama BOOC, che è un acronimo di Biblio Officina Occupata di Quartiere, che abbiamo occupato all'inizio dell'estate di quest'anno, e che è quasi insomma, definitivamente una biblioteca di quartiere, sarà presto una ciclo officina e una biblioteca degli oggetti. Tra le cose che stiamo cominciando a fare, anche questo è un esordio per BOOC, ci sono appunto incontri con autori che ci piacciono, declinando un'idea condivisione dei libri, della letteratura, che appunto tende a vorrebbe uscire da luoghi sicuri, intimi, e come dire, approssimarsi alla strada, a luoghi un po' più promiscui e anche di passaggio. E, dicevo che è un esordio perché abbiamo esordito il 16 con i Wuming, con una presentazione pomeridiana in piazzetta. Abbiamo esordito con la nostra prima presentazione l'altro ieri serale qui al chiuso con Nicola Lagioia, e esordiamo stasera con il nostro primo reading, che è quello che farà Francesco Maino. Il libro di Francesco Maino, Cartongesso, è un libro straordinario, fantastico. Straordinario è una parola che ho usato troppo spesso l'altra volta, quindi chi era anche per la gioia dire vabbè, questo sarà il filo conduttore di tutto l'anno. No, allora, è difficile parlare di questo libro. Direi che è una un'invettiva rabbiosa, ironica, comica, malinconica, desolata e drammatica, ma anche molto molto leggera in qualche modo, proprio perché demolisce se stessa nel momento in cui si innalza a qualcosa di magniloquente o altisonante, nella quale prorompe la voce narrante di questo romanzo, che è un avvocato quarantenne, quindi insomma, se qualcuno pensasse che diciamo c'è qualcosa di autobiografico, ha buone ragioni per farlo, che non si chiama Francesco Maino ma si chiama Michele Tessari, sul Veneto contemporaneo, sulla rovina morale, civile, ambientale del Veneto contemporaneo, che diventa evidentemente metafora della rovina morale, civile, politica dell'Italia contemporanea. Tutto questo è costruito con una lingua incredibile che Maino ha inventato, perché ha preso il dialetto, ha preso Zanzotto, che è un poeta veneto, ha preso la lingua della televisione e ha costruito questa cosa. Francesco Maino ci ha chiesto appunto, lui va in giro a presentare questo libro non con le presentazioni tradizionali ma con dei reading, quindi io taccio subito perché do la parola a Francesco, che ci dirà come andrà il resto della serata, perché Francesco dice che non preferisce non parlare del suo libro ma leggerne un po', di solito lo fa venendo accompagnato dal vivo da una band di indie rock che si chiama Margaret, che stasera non è venuta perché ancora, ma per poco, BOOC non si può permettere di pagare in viaggio a un'intera band, ma insomma è questione di pochi mesi e ci attrezzeremo anche per questo. Per cui sentiremo tra un brano e l'altro, tra una lettura e l'altro, alcuni brani della band, dei Margaret, che sono di solito i pezzi che accompagnano queste letture per qualche minuto, che faranno da stacco da una lettura e l'altra. Mi pare di aver detto tutto. Allora, tanto mi alzo così mi vedete. Allora, adesso vi faccio vedere, cerchiamo di fare questa cosa, un po' questo esperimento. Vi faccio vedere un video, partiamo dalla fine, un video di 5 minuti più o meno, che abbiamo girato con una Vespa, con un paio di amici miei ingegneri. Abbiamo preso un bastone alto 2 metri, al cui sommità abbiamo attaccato una piccola telecamerina, una GoPro, telecamera che usano i ragazzi per farsi video, eccetera. E abbiamo girato diciamo, nei luoghi in quali sono ambientati i pezzi principali del libro, del testo. È un luogo, si tratta di questo luogo del Veneto orientale, cioè la parte, diciamo, del basso corso del fiume Piave, nella laguna orientale di Venezia. Quindi la localizzazione è proprio quella. Non è un caso che abbiamo scelto di girare lì, anche perché lì c'è il fiume Piave, fra un po' ricorreranno i 100 anni della prima guerra mondiale. La mia città è San Donà di Piave, è una città ra stata rasa al suolo perché stava proprio sul fronte. Dopo Caporetto e dopo la caduta di Cadorna arriva Armando Diaz, l'esercito italiano si ricompatta sul fiume Piave, che era la Piave, fiume femminile. Da lì c'è la famosa Battaglia dell'Arresto e poi la controffensiva del luglio del 18. E da quelle sponde un po' retoriche c'è la famosa canzone del Piave: Piave mormorò, non passa lo straniero. Piave mormorò, non passa lo straniero. Questo Piave mormorò, non passa lo straniero, naturalmente è un po' così beffardo rispetto al Veneto attuale, il Veneto leghista, che insomma è tutto fuorché, io lo conosco molto bene, tutto fuorché intransigente sostanzialmente e poco accogliente in ospitale, però fa un po', stride un po' questa cosa di questa retorica del Piave che mormora, non passa lo straniero, specialmente adesso in tema di appunto problemi grossi che riguardano il suo paese, insomma le venute dall'Africa, insomma l'accoglienza che noi riserviamo specialmente in Veneto a questi nostri fratelli che giungono da terre un po' più sfortunate. Quindi i luoghi in cui il video è ambientato diventano personaggi, anzi è un personaggio, sono luoghi deprivati, luoghi di capannoni, di enormi centri commerciali, non luoghi in cui ci sono concentrazioni di uomini e donne che ormai si muovono freneticamente per una forma di acquisto compulsivo, ma dentro una devastante crisi economica che su di noi, cioè a noi, cioè con noi e dentro di noi ha inciso profondamente. E per cui probabilmente dentro questa fase, dentro questi non luoghi, si gioca una partita fondamentale per il nostro futuro, ma naturalmente è un futuro di carattere spirituale, perché per lungo tempo in Veneto ci siamo occupati dei problemi che riguardavano la materia e non lo spirito, che dovevamo vincere la nostra povertà attavica. La povertà attavica, in senso materiale ben battuta, rimangono i grandi interrogativi sulla nostra esistenza, interrogativi esistenziali su come pensiamo di vederci di quei prossimi 50 anni, visto che avete letto su giornali cronache, insomma, parliamo di quasi 65-66 morti impiccati, genitori che in qualche modo non decidono di togliersi la vita dentro i capannoni, li troviamo impiccati perché insomma la crisi economica ci ha un po' travolti. Il libro parla anche e soprattutto di questi luoghi, e il protagonista Michele Tessari, questo avvocato quarantenne, si muove compulsivamente dentro questi spazi che sono appunto spazi più o meno disumani. Ecco, adesso facciamo questa cosa, vediamo il video, dopodiché proviamo a leggere e vediamo come leggo. Un po'. Il mio lavoro principale, il mio primo lavoro, quello ufficiale qui in Saponata, un lavoro non retribuito, quello per il quale mi trovo impiegato 24 ore su 24 ogni giorno senza soste, quello che svolgo da sempre, vale a dire dal momento in cui ho raggiunto la cosiddetta capacità naturale, più o meno dai 16 anni in avanti, è quello che mi vede pedissequamente impegnato nell'impedire alle salme mobili che occupano la mia vita biologica di annientarmi definitivamente con la loro biologica visione delle cose. Questa visione delle cose è ovviamente una visione biologicamente pragmatica e piatta, ovviamente una visione elementare e vuota, tipica delle persone premorte che occupano militarmente la mia vita attraverso corpi ricoperti da divise. Questa visione fonde e assicura la sua esistenza su due regole tanto rozze quanto incredibilmente efficaci. La regola che chiamerò per comodità, la regola A, statuisce 1 più 1 fa sempre 2, mentre la regola che chiamerò regola B recita 1 più 1 fa 2 qui e ora. Diversamente da quanto accade a me, 1 più 1 non fa quasi mai 2, potrebbe fare 1 e mezzo, forse 2 o 3 quarti, ma soprattutto nell'ipotesi in cui 1 più 1 dovesse fare precisamente 2 qui e ora, ebbene, l'accadimento sarebbe per così dire marchiato per sempre da un'invincibile incertezza, un evento premonitorio in senso catastrofico, come quando prima di terremoti si vedono in certe inquadrature di telefilm a tema subdrammatico piccoli uccelli agitarsi con nervosismo, le pupille nere che vibrano dentro le orbite come gocce di cottura sul piano rovente della nuova cucina componibile. Credo che questa mia inettitudine a governare il destino, ammesso che il destino intenda farsi convogliare da poteri umani, dipenda da una mia forma di radicale pigrizia, che so essere una specifica deviazione della mia malattia, ovvero una sua evoluzione. Il mio secondo lavoro, che è in rapporto di connessione col primo, ugualmente non retribuito, lavoro che svolgo senza tregua per 24 ore al giorno, a tempo indeterminato, equivale al maldestro ingenuo tentativo di mantenere in vita alcune mie aspettative in un bidet di provincia chiamato il Basso Piave, al maldestro ingenuo tentativo di mantenere in vita alcuni progetti di fuga da un bidet di provincia chiamato Basso Piave, una terra, o meglio, un territorio, come si usa dire in giro, cioè nei bar e nelle pagine della cronachetta, un territorio dimenticato dalla grazia di Dio e dagli uomini intelligenti, o meglio, ricordato solo da uomini confezionati o da spericolati coltivatori di clientele, un territorio che ha voluto fare a meno della grazia di Dio. Questa terra ha smesso di mantenersi a mani nude, non è più una terra, e infatti è divenuta un territorio. Gli hanno fatto credere a questi veneti che dovrebbe bastare loro il pane e la coppa, una busta paga, Sharm el Sheikh, i contributi dell'INAI e l'INPS, l'auto lussureggiante, la fichetta ben rapata con le unghie di piedi smaltate, come piace a loro, 24 centimetri di tacchi sottili come stuzzicadenti e tutto il resto al posto giusto, compreso l'anellino sul clitoride, il tatu shintoista sulla spalla, le protesi ai seni, le chiappe indurite dalla palestra. Li hanno battezzati questi insaponatesi a prescindere dalla loro volontà. Le goccioline hanno purificato la loro fronte a 6 mesi di vita e parroci pinguini come germani nostrani col doppiamento alla pelle di margherina hanno aggiunto un fedele in più alla lista della comunità virtuale. Poi hanno fatto la comunione almeno fino ai 22 anni e frequentato con profitto l'Azione Cattolica Ragazzi e gli amici di Domenico Savio. Ciò vuol dire con l'algebra del 2 più 2, 4 osti al mese, 48 l'anno, 384 osti in complessivi 8 anni di sante messe, salvo festività eccezionali. È chiaro come questi insaponatesi, dopo una simile dieta cristologica, abbiano sviluppato un'intolleranza alimentare. Basta con le particole benedette al pane, alla farina di mais, al kamut, al farro, alla segale, alla zucca. Lo spritz è la risposta. la nuova Eucaristia, un terzo vinello bianco amabile, un terzo Aperol, ovvero Campari, un terzo Seltz, fettine di limone, ghiaccio, 2 euro. Bevetene tutti, questo è il nuovo sangue arancione versato per la rimozione dei peccati nelle 35 basiliche bar del centro di Saponata tra via dei Trattoristi e piazza Italo Balbo, dove si trascinano nei weekend senza speranza per fare l'aperitivo, per fare la comunione, i mostri acefali. Si potrebbe dire il prodotto umano della funzione meccanica che va esaurendosi all'interno del capannone. Questi non solo sono l'arca e il ricovero della manna dei consumatori, i luoghi sacri della genesi di pizze surgelate per la grande distribuzione, di custodie per telefonini, di piedini per letti matrimoniali, luoghi pensati per l'assemblaggio di stanghette per occhiali da sole, antine e testine, solette per calzature da fitness, componentistica per lavatrici industriali, portachiavi e schiala a chiocciola, hanno anzi una funzione primaria molto più performante, partorire e accudire il futuro capannoide, un corpo bianco di 85 kg di massa prevalentemente grassa, nato dal ventre scenografico e piatto del capannone, morto dopo una gestazione di 35 anni, 10 anni di modelli CUT, 10 anni di contribuzione. È l'uomo senza profondità che vota per la Lega Nord o l'Imega Nord, il PDR, il cui pregio principale è quello di essere ab origine incapace di reazioni e resistenze, perennemente sedato dalla dolcezza della busta paga, appagato dal complemento semincosciente degli ordini elementari e sicuri dei capi reparto o controller qualità. L'unico sollievo che possiamo dare all'operaio è, crediamo, quello di rendere il suo lavoro più incosciente possibile, per permettere al suo cervello di occuparsi d'altro. Così Adam Smith. Il capannone è maschio, ha ideologico, confortante. La sua necessaria coniugazione al femminile è la casetta nella nuova zona residenziale, appunto. Casetta o gruppi di casette, è lo stesso. L'importante è la sua funzione altrettanto performante e terrificante, la costruzione della femminina, la necessaria moglie del capannoide, una creatura biomeccanica di 30 anni, bianca anch'essa, indoeuropea, fieramente incolta, dalle forme femminili, gambe affusolate, i piccoli seni, il culetto, l'offio, il ventre piatto, la figa puerile depilata, come sono puerile d'altronde tutti gli elementi, colonnine e timpani simbolici che caratterizzano la facciata della casetta in cui vive la femminina con il suo capannoide. I 35 bar di Saponata di Piave sono disperatamente popolati nei weekend soprattutto da questi capannoidi, da queste femminine. Ognuno ha il proprio bar, un bar del cazzo in cartongesso, penso, metà cartone, metà gesso, il cartone delle baracche da dove tutti proveniamo, il gesso che si sfarina come cocaina, quella che tutti aspirano, il bar, il proprio Portofranco, il proprio atollo, i propri disperati prosecchi, le disperate bollicine, i disperati vodka tonic, i disperati spritz al select, i vinelli più disperatamente strutturati, i rossi importanti, anche se disperatamente soli. stato nel luglio del 1997, adesso che mi viene in mente, giorno 29, voglio dire, è nel pieno della mia maturità di ometto, in un momento unico per simmetria e coincidenze, mentre sdraiato sul pontile affollatissimo di milanesi, romani e gazzette dello sport, Anna Consulic mi lambiva il fianco con la testa, formando una specie di croce con il mio corpo, sotto il sole di Paros, gli spruzzi delle onde che centravano i nostri toraci dopo aver centrato i pali di sostegno del pontile, trasformandoci in un ricamo di sale marino e aghi di pino. Con lei, Anna, che aveva la pelle ambrata, i capelli brunissimi, i tondi smeraldi degli occhi e uno stupefacente bikini grigio perla annodato sulle anche, che le faceva le gambe ancora più lunghe. Con lei, Anna, che mi sfidava con gli occhi capovolti. Con lei, Anna, che al momento della mia partenza verso il pontile, sulla nostra tenda tutta italiana, mi aveva spifferato nell'orecchio, piena di una complicità verticale, mentre finivo di mangiare gli alici sotto sale. Ti raggiungo, amore. Aveva aggiunto la parola amore all'esperienza ti raggiungo, dopo una piccola sospensione, spifferandomi un bacio sulla spalla, un bacio piccolo, materno, fondante, ma estremo come la parola amore, detta in un modo inedito, come se avesse voluto mischiare le carte di un gioco tra noi, noi che non abbiamo mai avuto un gioco, in un luogo, l'isola di Paros, in cui ogni equilibrio sarebbe stato sparigliato, tempo e spazio avrebbero assunto i nuovi significati di dimensioni non terrestri. Non c'è più un prima, non ci sarà un dopo, un adesso, non un alto basso, un dentro fuori, un dritto curvo. Non il 1997, non il quaternario, non l'Egeo, non le Cicladi, non più mare nel mare, non più sette giorni sette, non più Achei sulle creste, non ire funeste. La terraferma sprofonderà e le isole, pure le isole, tutte le isole, dalla Dalmazia alla Grecia, inghiottite dall'ombelico di Anna Consulic. Ogni oggetto viaggerà 300.000 chilometri al secondo. Forcine, mandorle, zoccoli, occhialini, accendino, pareo, prue, pacchetto di sigarette, vele, lavanda e dracme. E non si capisce se l'orizzonte greco sia solo cielo che accelera nel cielo e non già ipotesi di antimateria da cui ricominciare, sulla quale intravedere in due la nascita di un bacio. E con un solo bacio dire che noi siamo i primi uomini del pianeta Terra. Ipotizzare la nascita di nostro figlio, il figlio dei nuovi dei, il dio pescatore di seppie, la dea vendemmiatrice di rizzina, il dio raccoglitore di olive, la dea impiressa di fichi, e scommettere per gioco su ciò che sarebbe potuto essere il nostro matrimonio, mai sarebbe stato. Avrebbe potuto dire ti raggiungo stella, sarebbe stata la stessa cosa visto il tono della voce modulato dall'intenzione, ma disse proprio amore e non stella, questo era un fatto, doveva voler dire pur qualcosa, e mentre lo diceva, mentre diceva dell'amore, e pareva avesse speso quella parola in un modo del tutto nuovo, un modo rivoluzionario che faceva la differenza, un modo che apriva passaggi mai concepiti prima, deviava orbite, poneva possibilità quantistiche, metteva il cervello nella orta, i gabbiani nei vulcani, amore, con cinque lettere, amore, atomi, microparticelle, orbite, relatività, elettroni, voleva significare l'orbita relativa nell'atomo di elettroni e microparticelle, mandava a monte la partita dell'evoluzione umana, mi faceva pensare Anna. Assurdamente mi son detto che se avessi sperimentata un giorno la paternità, avrei affidato mio figlio, cioè il nostro bacio, un me innocente, a una madre perfetta come lei, perfetta come la mia, perfetta per nostro figlio, il mio bacio, ma totalmente imperfetta per me. Should have left you by the train. Shouldn't have left without explain. Shouldn't have let you touch the ground. Should have let you count the clouds. Rosemary comes. Rosemary comes. Non so perché qui, oggi, nella casa B di mia madre, mi vengono in mente gli occhi di Lara, la penultima volta che le ho parlato, a casa di sua nonna, madre del professor Antonio da Rossa, dinastia di insegnanti di lettere. Mi vengono in mente quell'album dei Midnight Oil, un gruppo che non sopporto, sin da quando ho sentito per la prima volta Beds Are Burning, e quel libro di Tolstoi sul tavolino in soggiorno, di cui ho rimosso il titolo, a simulare la sua maturità di lettrice, il poster di Miriam Makeba, il lampadario di Murano, la quadriglia di vasi di Venini, i tappeti persiani, quel pianoforte a muro, maledetto. Lara da Ross stava pancia in giù sul divano, succinta, le gambe incrociate, faceva caldo, era fine agosto, un caldo anomalo. Ecco perché ci penso, perché oggi, con la caldaia rotta, qui nella casa B di mia madre, ho un freddo che non si può neppure spiegare. Sua nonna dormiva al piano di sotto, aveva 75 anni, ben portati. Lara aveva appena bevuto a canna dalla bottiglia di Ferrarella, in un modo che mi era parso volutamente sguaiato. Sei bella, potevo dirle, e il collo appena girato verso di me sul divano, mi ricordo benissimo quel frangente, mentre si stilinguiva sulla mia fronte. Sei bella, potevo dirle, come se non ci fosse più tempo da perdere, disperatamente, nulla da fare dopo le tagliatelle all'uovo di sua nonna, la lonza di maiale in crosta, le patate novelle, il passito, come se delle guardie politiche là fuori, schierate di fronte alle colline, di fronte al baluardo di sua nonna, ci stessero attendendo per il fermo di polizia. Sei bella, dovevo dirle. L'ho pensato mille volte, non avendo alternative, non avendo più soluzioni, ma non lo dissi, non lo so perché, non lo dissi. La faccia di Enrico Ghezzi veniva dalla televisione che sibilava a basso volume come la nene di un mentecatto di paese. Si vedeva la faccia di Ghezzi assieme a un nuotatore in apnea. Io avevo guardato i piedi allunati di Lara, che nella penombra del salotto mi erano parsi d'improvviso tozzi, i fianchi mollati, i femori sì lunghi ma inspiegabilmente larghi, come quelli del mammut, il segno delle smagliature sulle cosce spogliate, che non avevo mai visto, ma che quella volta avevo visto benissimo, e la stanchezza precoce sui seni molli, come cachi maturi, nonostante i suoi eterni 25 anni. E poi la grande finestra di fronte al divano, dietro al TV Color, da cui filtravano anemiche le lucette sui terrazzamenti di Prosecco, illuminate dai lampioni delle aziende agricole. Ho rimosso quegli occhi gelidi come i miei, egoisti come i miei. Ho rimosso il colore, come ho rimosso il suono millesimale delle bestie notturne, gli anabaglianti di alcune auto isolate che si incrociavano in salita sulle pendici delle colline, dirette non so dove, a fare non so cosa in mezzo ai castagni in costa. Non mi ricordo se mi erano apparsi in quell'ultima cena occhi azzurri o verdi, mi ricordo solo che erano come i miei, come quelli della vipera. Questo posso dire, la vipera della scuola, il barattolo di vetro in quella teca scolastica, nell'aula di scienza, in quel pomeriggio del 1984 a quell'ora, avevano avuto al netto della loro assoluta bellezza riflesso nella plastica della Ferrarelle, un'improvvisa fissità amorale, fissità mortale in una soluzione assettica. Mi sono sistemato allora le braghe per un attimo con la mano, frugando nelle mutande, dopo che l'arda rosa si era addormentata sul divano, vinta dalla nostra noia, sconfitta dalla mia codardia. Non ho più sentito il pezzo della mia virilità scaduta, ho provato imbarazzo, qualcosa di simile alla vergogna, poi un tremore, l'agonia, e poi ancora caldo da morire sul collo, caldo, caldo da morire sul torace, caldo, sudore da tutte le parti, la gola arsa, arsissima. Immagino l'Arda Ross che si gira quella stessa notte, qui, oggi, in questo dicembre 2009, nella casa di mia madre, senza caldaia, con una praticità irriconoscibile, una sveltezza scaltra, mostrandomi la linea della schiena nel punto in cui la schiena finisce. Immagino il cazzo mio che non cade, guarda il glorioso plotone di esecuzione, non si ramollisce sul palmo come il collo dell'agnello. Immagino il cazzo Castigliamatti che, disdegnando gli amori sterili, arriva vergine al suo primo e ultimo amore, poi in un attimo, spostando il cuscino, inarcandosi appena, disgustata, senza guardarmi, con gli occhi guardinghi di un predatore notturno, immagino davvero di sentirla, nuca ventriloqua di Clara Ross, che chiede nel dormiveglia se mi va il sesso anale, mentre io, rabbioso, decido se appellare quella sentenza di morte. Un insetto sbatte contro la finestra che guarda la tenebra veneta. Avevo 12 anni allora, nel 1984, in quella scuola media statale, a quell'ora, in quel meriggio, davanti a quelle teche di vetro, a quegli embrioni rettili in soluzione alcolica. Ma sempre sono rimasto come quel cucciolo di vipera sotto vetro. Sono rimasto anch'io come uno di quegli embrioni di rettile dietro il vetro della teca, dentro quel liquido assettico. Siamo rimasti tutti, tranne mia madre, come quel cucciolo di vipera custodito in un barattolo, dei complici deboli. E nessuno, è chiaro, potrà farci più niente per i prossimi 65 milioni d'anni. Sound down in the Oggi è domenica 6 dicembre 2009, è una delle tante domeniche senza senso del dopostoria. Al parking dell'outlet di Novetta sono parcheggiati 9.000 autoveicoli in altrettanti posti auto. I 500 dipendenti, 500, mettono l'auto in un grande parcheggio scambiatore, poi prendono il bus navetta che li conduce al lavoro. Un tramonto rantolante si proietta sui parabrezzi. Ingroppate agli specchietti retrovisori pendono rosari di plastica. Sull'unotto stanno appiccicati tagliandi assicurativi scaduti. La polvere di tappetini lato passeggero è stata aspirata di sabato al prezzo lancio di 8 euro. 8 euro. È una luce ambulatoriale che arriva esangue e senza tregua fino all'ultimo piano del Best Union Hotel, dove su terrazze panoramiche vista Casello, le libere puttane delle Americhe Centrali si prendono la giornata di rivincita con gli agenti di commercio dell'agroalimentare in trasferta aziendale. Lo vedo bene al piano sequenza, mentre percorro la parallela al cavalcavia della Venezia Pristina, appena fuori dal Casello. Dentro ci sono almeno 12.000 corpi di consumatori sinistri, 12.000 cellulari che inviano 36.000 sms al minuto. Dove sei? Sono qui. 2.160.000 all'ora. 2.160.000 all'ora. Fanno la mostra su Hemingway, ho saputo, una mostra multimediale, a fianco una gondola messa lì apposta nella piazzetta della gondola per giustificare agli occhi dei bielorussi albini che l'outlet, come l'Arena di Verona, la Fenice di Venezia, la Cappella degli Scrovegni di Padova, è anche una città con un centro culturale. I centri culturali e le città d'arte derogano al regime di chiusura settimanale regionale, sicché la domenica giorno del Signore è sempre tutto aperto, tutto l'anno. Si lavora H24 con o senza il sindacato. La protezione civile distribuisce generi di prima necessità, moltiplicatori di pani e pesci, bottigliette d'acqua e panetti alla coppa agli automobilisti rimasti intrappolati, i nuovi alluvionati abbronzati, i nuovi terremotati massaggiati, i nuovi lebbrosi fotoringiovaniti, un piattume pianeggiante di pandemia di acquisto senza un minimo di scossa se non il brivido al ventricolo quando si deve pagare la bolletta dell'acqua che scade, il bollo auto che scade, l'assicurazione vita che scade. I corpi scaduti sono rimasti imprigionati nel gorgo del parcheggio, sono imbottigliati nella passione del traffico, non come vino di Galilea, nell'otre di Creta, la cinere nozze di Cana, ma come mosto marzo divenuto aseo, aceto, in una cisterna d'acciaio. È domenica e piove giuso a 100 metri da quel che resta della Piave dopo 7 secoli. Quando vedo scritto all'imbocco di ponti sulla Piave «Fiume sacro alla patria», mi commuovo, diceva Parise, ma non perché penso all'Italia, bensì perché penso al Veneto. A me, quando passo il ponte all'altezza di Insaponato, calcolando che vado a Venezia nel tribunale laido 3 volte la settimana, per 200 giorni l'anno, da almeno 6 anni a questa parte, e vedo il marmo con la medesima stupida scritta, mi prende una rabbia difficilmente ammortizzabile, è rabbia senza piano di rientro. Lanciarsi giù sarebbe un attimo, penso. Ecco la rabbia che ritorna. Ma qual è l'origine di tutta questa rabbia? Thank you. Domenica mattino il mare spinge al contrario, come una femmina bastian contraria che non voglia partorire più i suoi gemelli. Non c'è più spinta, non scende più niente da monte e l'Adriatico non riceve. Monte e valle sono capovolti e tutti i nemici avvocati che aspettavo di veder scendere cadaveri e roveri nel fiume sacro dal Montello, seduto sulla panchina sul Piave, non passeranno. Posso aspettare 1000 anni i cadaveri di nemici, ma i cadaveri di nemici non passeranno, mi dico, li aspetterò, ma si tratterà di assurda attesa. Loro, i corpi di legno gessato e azzimato, non passeranno sotto il ponte del Piave, poiché l'acqua spinge al contrario, non c'è niente da fare, niente da aggiungere, una strana acqua salsa risale il letto, non si sa bene fino a dove, forse fino al ponte di Barca Fossalta, lì dove Hemingway fu impallinato un giorno di luglio del 18, dove sono volate via le gambe di Cino e Randolfo, dove si è costruito il monumento perfetto, 10.000 lire sotterrate più una merda. Risale il fiume, la Piave, come un'infezione, un'iniezione centripeta, dando l'idea di una gestazione senza fine, un pancione premonitore, salmastro e marcio, nel cui interno il feto trigemellare non è un feto, ma un tris traditore di vipere umane in una laguna di diossina. Le acque gonfie dei canali non si rompono, le doglie delle rane proseguono imperterrite senza fine, darsela e prendersela. Tra canneti, rive cedute, contadini estinti, balle di fieno, salici bianchi, villette da manuale, vivai, pioppe, carrozzerie, assessori, accessori, ragazzi obesi, autolavaggi, benzinai, menù fisso, 10 euro. Col senno di poi posso dire di essere stato uno scemo, perché con un po' di buona volontà e fortuna potevo pure scappare da qui, ripiegare in Spagna, non so, Palma di Maiorca, Nuova Zelanda, fare il custode in campeggio, a contatto almeno con il mare, o la manutenzione invernale della pineta del Lido di Jesolo, a caccia di rane lungo le canalette di bonifica, oppure aiutare Sandrino Nicolic a pescare le sgombre dell'isola di Susac, oppure fare il contadino a Gradassa, resistere e vivere diversamente, tagliare taleggio italiano non alimentare nel Commonwealth, o suonare uno strumento, la tromba. Invece non l'ho fatto. Non ho fatto niente, a parte far finta di fare l'avvocato qua giù nella palude. Ho camminato, questo sì, sì, ma senza spostarmi d'un millimetro dal buco, qua giù, nel Veneto scimunito, apprezzato da nessuno, divorato da zanze e clienti, qua giù, a fuoco lento. Il mio sangue marcio si è mischiato ad aglio e cipolla nei piatti di fagioli di ex osterie senza oste, divenute filiere dello spritz industriale. Non ho fatto niente a parte provare a raddrizzarmi la schiena, svuotare la vescica, pitarmi la faccia allo specchio ogni mattino degli ultimi 9.000 anni, tutte le mattine, mani di creme, sopra altre creme, per uomini come me, dei quali non è più possibile vedere gli occhi. È andata così, porca puttana, perché mi è come mancato il coraggio, la sufficiente fortezza morale, o forse perché la pizzeria alla Buca dei Papi ha cambiato gestione e da quando c'è per l'appunto la nuova gestione, per un motivo del tutto inspiegabile, che mi ha allichito, non si usa più tenere la mozzarella di bufala, dunque non posso più ordinare la margherita con la bufala, in assoluto la mia pizza preferita, la mia pizza preferita in assoluto. È stato allora, qui, in saponata di Piave, e digerite alcune gocce di Metomil di domenica, giorno del Signore, dopo l'edizione serale del TG1, dopo il meteo che annuncia perturbazione da est, anticipando il corso del destino, mi addormento sul mio tre piazze dell'Ikea, serenamente. Mi chiamo Francesco Maino e nel 2014 partorisco Michele Tessari dopo una gestazione durata 10 anni. È stata, non c'è che dire, una colpa innaturale tenere in grembo, per un uomo come me, un'altra creatura. 9 su 10, Michele Tessari, che è irrimediabilmente segnato da un destino sinistro, cioè quello dei pazzi, non troverà un luogo del pianeta Terra a propria immagine e somiglianza. Non la Piave del Montello, non la Laguna di Torcello, non il Sestiere di Castello. Forse dirà cose feroci sul Veneto, sputerà sentenze irrevocabili sull'Italia, avrà una fame cattiva e rabbia cancara. Si scaglierà contro lavoratori innocui, vecchi ingenui o giudici pignoli. Tutto questo va compreso, quindi chiedo a voi là fuori di farvi ostetrica, d'avere spirito caritatevole e accogliere l'urlo accanito di Michele Tessari, il delirio matto di Michele Tessari, mio sfortunatissimo figlio, come una ragazza madre accoglie il proprio puteo bauco, il proprio bambino stupido. È un insegnante in pensione d'arte, insomma, di cozione artistica. Dico: babbo, sai che vado a Palermo a leggere il libro? Mio padre, che è un uomo di 72 anni che parla poco, mi ha detto, mentre stavo uscendo con la borsa, mi ha detto: mi raccomando, non farmi fare brutta figura. Cioè, lui è uno che legge però me l'ha detto in modo molto, come dire, grave e convincente, autorevole. Ha detto: babbo, però insomma dovresti venire anche tu a vedere, ma credo di sì, insomma dovrei riuscire a leggere, a farcela, però tu sai che noi abbiamo un nome, un cognome, quindi mi informerò su Palermo, in qualche modo farò, cerca di non farmi fare brutta figura, spero di non averla fatta, insomma, ecco, basta. Il libro l'hanno già tolto dagli scaffali di alcune librerie. E, secondo me, noi che lo abbiamo ascoltato stasera, chi lo ha già letto, chi lo sta leggendo, secondo me ha consapevolezza del valore di quello che ha sentito e di quello che ha per le mani. Libri di storia letteraria, quando saremo già morti, avranno il capitoletto Francesco Maino. Ma nel frattempo, non è vero, questo è quello che avevo pensato io quando lessi il manoscritto, ma tu poi mi dicesti che non era vero. Quindi, insomma, passiamo parola, perché insomma, non può vincere sempre la Mazzantini. Una noia mortale nei riguardi della transizione. questo cambiamento, perché anche là, vabbè, abbiamo delle radici comuni, sia il Veneto che la Sicilia sono nate la loro cultura, la loro storia, nasce su basi agricole, e lei l'ha accennato per questo discorso, ho capito male io. E quindi questa frattura che avviene soprattutto da voi e con noi rispetto a noi siciliani, quindi ho notato più che una sua rabbia, un senso di noia verso questa imposizione di Tran Tran. Ho capito male? Poi c'è, sicuramente c'è una forma di alienazione, questo sì, non lo nascondo, ma è più, credo che l'elemento scatenante, cioè detonante, sia, c'è anche della noia, ma più forse come dire, il sentimento di impotenza, dunque la rabbia che mi deriva dal vedere certe cose che non si possono vedere. Insomma, oggi, stamattina, parlavamo della condizione, sono un avvocato penalista, quindi la condizione delle carceri italiane, insomma, del carcere di Venezia, e che è insostenibile, ma poi soprattutto lo sfilacciamento delle relazioni umane, cioè lo smottamento complessivo di una consapevolezza spirituale che è stata prodotta da un'accelerazione spaventosa dei modi produttivi che hanno portato un arricchimento velocissimo in un tempo tutto sommato relativamente breve. Cioè, a paragonare la condizione complessiva generale dei padri, insomma, mio padre del 43 rispetto ai figli nipoti, è come se, insomma, se noi le paragoniamo, è come se noi paragonassimo due diverse ere geologiche. Cioè, l'era di, cioè, da noi, sì, spaventoso. Cioè, il mondo di mia nonna rispetto al mondo mio se volessimo fare un paragone, potremmo paragonare il mondo dell'età della pietra rispetto al mondo del ferro. E probabilmente questo tipo di rottura anche di rapporti, insomma, umani, mi ha in qualche modo anche. Cioè, io poi che vivo dentro queste cose, cioè, insomma, dice Barilli, lei dice mai uno scrittore di appartenenza, no? È dentro le cose, non riesce a staccarsi da quelle cose. Barilli dice. Cioè, gli scrittori si dividono tra quelli dell'appartenenza e dell'inappartenenza. E io dico, sì. Oppure si può anche dire, ci sono scrittori di parole e scrittori di cose. Veramente vedo una disperazione totale, perché non c'è un'idea, non c'è, e vorrei anche usare una parola antica, un ideale che possa guidare, che possa dare la spinta a vivere. Ecco quello che ho trovato nella sua lettura. Forse ho sbagliato, forse non ho capito bene. Io in realtà è un libro, io ho scritto ho scritto una mia personalissima preghiera che può essere letta collettivamente, e anche ho cercato di fare una nuova mappatura anche linguistica per provare a chiamare le cose con il proprio nome, insomma. Ma credo sì, ma io non credo che sia un libro, non ho pensato, ho pensato di scrivere un libro di speranza, cioè non ho, è un libro pieno di amore, non è verso la mia terra, ma naturalmente non ho la sua visione, è una visione molto più ottimista, cioè vedo, insomma, c'è una marea di gente in gamba, di gente giovane, insomma, che hanno, ci sono mille possibilità. Ovviamente viviamo questa frattura grave, economica, però vabbè, insomma, anche, credo che la letteratura anche civile possa, la scrittura civile, se sa in qualche modo raccontare le cose con evidenza, se sa chiamare le cose in proprio nome, può offrire spunti anche per di riflessione, creare nuovi patti di fiducia tra le persone, sia come singoli, sia come collettività, sia come civiltà, insomma, di culturali, insomma. E poi credo che possa anche in qualche modo fondare nuove memorie, insomma. Diceva Calvino, la memoria funziona se sa cogliere l'impronta del passato, ma sa anche gettare un ponte nel futuro. Io questo credo di aver, cioè, questo l'avevo, cioè, questo ho pensato, insomma, io sono un essere finito, sono un uomo, morirò, ma spero che questa cavolo di libro che ho scritto serva a qualcosa, serva da darci un tono, specialmente in Veneto, dove, insomma, è vero che soffriamo, però, viva Dio, insomma, le civiltà progrediscono, perché mondo è mondo, gli uomini sanno rifondarsi, sanno costruire nuove alleanze, ma patti di fiducia, è quello che ci manca, ma lo saremo chiamati a farlo, perché il mondo è fatto così, gli uomini sono fatti così, insomma. Quindi la lingua serve anche a fare fede nuova, quindi fiducia nuova. Come no? Anche se Michele fa una brutta fine, ma io non sono Michele. Beh, insomma, dipende dai punti di vista. Michele in realtà è un personaggio di narrazione, quindi aleggia tra di noi e ci pungola, quindi ci prende per le orecchie se facciamo cazzate, insomma, ci prende a calci. Però è la cosa buona di Michele Tessari, che è uno che in qualche modo non sta sopra una cattedra, insomma, è uno che viene dal basso, non si manda a fanculo in buona sostanza, cioè, anche lui parte di questo, però c'è la sua come dire, ostinazione nel suo voler dire le cose, nel suo voler giocarsi in qualche modo la partita anche nella sua lingua per dire le cose, c'è un gesto, secondo me, di liberazione, ma che in sé ha qualcosa che ha a che fare con come la speranza, insomma, che la scrittura serva a qualcosa, insomma, è vero che ci sono le Margaret Mazzantini di Fabi Voli, però cioè, ci sono anche i Booming, anche i Maini e la Gioia, la Compagnia Bella, anche i Gesù e i Guagliana, insomma, e quelli che provano a, insomma, ci beviamo delle birre, allora, via. A meno che non ci sia qualcun altro che, però, insomma, sì, io volevo farti due domande, non una. Facile. No, parlo abbastanza facile, forte. Volete fare la domanda, mi tocca il microfono. Allora, il microfono. No, una cosa che mi viene in mente è intanto sul video iniziale, che è un territorio certamente più verde di quelli che vediamo noi, però potrebbe essere un territorio italiano, un territorio italiano qualunque. Però immaginavo anche che tu avessi girato un po' l'Italia con questi reading, con le presentazioni del libro, e se presentando questo libro che parla di Veneto però parla d'Italia, tu abbia incontrato delle peculiarità che ti sono rimaste in mente rispetto ad alcune regioni piuttosto che altre, la Sicilia piuttosto che il Veneto. E poi un'altra cosa che ti volevo, che volevo condividere è che io ho notato un po' una strana, come un ossimoro tra il fatto che tu hai scritto, hai pubblicato e lo lo leggi, la gente lo legge, questo libro, è una forma di scrittura quasi di soliloquio. Non lo so, le fantasie che ci facevo erano tante, cioè questo soliloquio ce l'avremmo potremmo avere in testa tutti, e se questo libro è stato un modo anche tuo per esorcizzare questo sega mentale. Io vado a mangiarmi una pizza. Allora, no, sì, una domanda bellissima questa che mi hai fatto. Ho fatto questo libro, o meglio, scrivevo per salvarmi la vita, cioè, lo dico proprio in modo, sì, non troverei altri modi per dirlo, cioè, ero disperato, non sapevo come fare a fare l'avvocato in questo modo. Io lo faccio da 12 anni, carceri, tribunali, avevo una grande crisi mia e quindi probabilmente questo avevo questo bisogno di dire questa cosa con emergenza, con urgenza, quindi in realtà è stata anche un po' una forma di confessione personale, un incrocio tra una confessione e anche una ringa in cui io ero un po' ero un po' l'accusatore e un po' l'accusato, quindi ero costantemente alle prese con me stesso, come dire, colpevole, e un me stesso che doveva essere assolto da, come dire, da crimini collettivi, cioè l'essere parte di questo sistema, parte di questa, giustizia italiana, perché poi io, facendo l'avvocato, ovviamente faccio un mestiere molto delicato, per cui c'era questa dicotomia tra ciò che io ho studiato e ciò che fondamentalmente sempre si realizzava, cioè pagliacciate, cose, insomma. Ecco, questo per risponderti, quindi sì, è stato un po' liberatorio. E per quanto riguarda il mio tour, il mio reading, devo essere sincero, in realtà la prima data l'ho fatta a Padova la scorsa domenica alla Fiera delle Parole, c'era Francesco Piccolo che era in platea al Teatro San Gaetano di Padova, che mi ha atteso, mi ha fatto i complimenti, una cosa mazzo. Però in realtà ho avuto moltissime lettere da colleghi avvocati, anche giovani avvocati di Siracusa, di Gaeta, di Nuoro, di Genova, che mi hanno detto che hanno visto in questo racconto, che ha una sua collocazione spaziale, delle similitudini, cioè c'è un ambiente, come dire, un ambiente psicologico collettivo più o meno similare, quindi c'è un mondo un po' di frattura con i vecchi baronacci che fanno i saccagni con la politica locale, gli avvocatissimi che sono bulimici, giovani pieni di speranze, pieni di vocazioni, di idealità, no? Anche di passione civile, che vengono sistematicamente spenti sul nascere, politiche di prezzolati, eccetera, eccetera. Quindi ho visto uno scenario italiano di provincia più o meno similare. E quindi mi compiace che di aver ricevuto queste lettere così accurate, così appassionate, no? di uomini come me che dicono: è come dici tu, hai ragione, non mi sono sentito solo, cioè mi sono sentito che c'era una comunità di persone come me che la pensavano in quel modo lì, che forse avevano anche voglia, anche con gli ordini professionali, voglia di alzare un po' la testa, di rialzare la schiena, di chiamare le cose con il proprio nome, di non dire, di non accettare le convenienze, certi silenzi un po' più, come dire, opportuni, in modo diplomatici, ma che era anche giusto di, se uno è un, voglio dire, che se Galan, adesso faccio un esempio, no? Il nostro governatore del Veneto, cioè tutti gli avvocati di Venezia non riescono neanche a dire il nome, no? Non possono dire, perché non si può dire, no? Come ha appena patteggiato 2 anni e 6 mesi, sono spariti 1 miliardo di euro in tangenti, cioè non si può dire che quei soldi sono rubati, cioè quello è un ladro, non si, no? Perché quella è la verità, no? Non ci sono altre verità, sono soldi sottratti a noi, alla comunità, quindi è un atto di, è un crimine. Bene, io vedo anche i miei colleghi nostri veneziani che sottovoce dovremmo dirci nelle orecchie, perché c'è paura, no, di chiamare le cose con il nome. Però ultimamente sto notando che le cose cambiano, che qualcuno alza, non certo per merito mio, però vedo che qualcosa può cambiare, e quindi ecco, sono questi gli aspetti che mi va di dirti, e poi vedremo. Adesso sarò a Lecce, sarò a Roma, girerò, vedremo cosa succede, insomma. vediamo se la scrittura così bislacca di Michele Tessari riesce a colpire insomma anche persone che parlano lingue diverse, insomma, ecco. Bene, direi che possiamo prendere le dita però adesso. Sì. Desideriamo sapere se e in che misura sono cambiate, se sono cambiate le condizioni delle carceri, considerando che hai 12 anni di attività e hai visto tanto. È cambiato niente? È cambiato qualcosa? Cioè, io tra l'altro sono insegnante in un istituto per geometri e sono referente per la legalità. E mi occupo anche con i ragazzi di vedere anche il rapporto con gli altri paesi europei, con la Svezia per esempio, cioè laddove la dignità, per quanto per carità uno che commette un delitto non so fino a che punto si possa dire dignitoso, però c'è per loro sempre il discorso dell'umano. Da noi in che condizione siamo ancora? Grazie. Così che si può dire dignitoso, ci mancherebbe. La stragrande maggioranza della popolazione carceraria è popolazione di ceto con, come dire, di livelli culturali bassi, di scolarizzazione, sono uomini e donne deprivati sul piano degli strumenti culturali, sono uomini poveri, in buona sostanza, anche materialmente poveri, che scontano pene legate a reati cosiddetti bagatellari, quindi parliamo di microcriminalità, entrano in una spirale poi naturalmente di recidive, non sono assistiti adeguatamente perché naturalmente gli avvocati di fiducia non li assistono, quindi hanno difese che sono sconce, e non vi sono in Italia politiche della prevenzione, non ci sono circuiti alternativi alla detenzione come dire carceraria adeguati, e le carceri esplodono, vengono mischiati ragazzi tossicodipendenti con ragazzi extracomunitari. Quindi l'articolo 27 della nostra Costituzione, che prevede una, come dire, una funzione rieducativa della pena, è naturalmente un fallimento completo. L'ultima beffa delle beffe, poi vi lascio veramente, le cause che naturalmente i carcerati fanno al governo italiano, perché naturalmente giustamente si lamentano della Corte di Giustizia Europea della condizione disumana delle carceri italiane. Quindi il governo italiano paga tipo qualcosa come 8 euro al giorno per risarcire il danno, il pregiudizio morale e fisico che devono patire i carcerati, che vengono privati delle condizioni minime di vita nell'esercizio nell'esecuzione della misura detentiva. Finisco. Questa è una delle tante beffe a cui io sono proprio partecipe, quindi studieremo a Bologna, all'università, tutta la funzione rieducativa della pena. No? L'idea che lo Stato dovesse intervenire con dei circuiti di prevenzione, no? E dunque intervenire anche con quelle fette di nostri concittadini che non hanno i nostri strumenti culturali, perché ci sono delle persone che insomma non ce la faranno, quindi magari anche in aree disagiate. Però queste grandi istanze democratiche dei nostri padri costituenti sono fallite miseramente, e quindi oggi ci affidiamo al caso, alla misericordia, ci affidiamo così. Navighiamo a vista sotto costa, tutto là. Molto, lo dico con grande tristezza, ma questa è la pura verità. Grazie.